Nuvoletta al vento di Ugo Betti. Dopo l'acquata le nuvole pronte pigliano il volo, scavalcano il monte. Or con la gonna di velo sottile la più pigra si impiglia il campanile. Lasciami con codesta banderuola, mi stroppi tutta, son rimasta sola. Ma il campanaro senza discrezione le risponde con il campanone. Che sobbalzo, che sgomento, per fortuna c'era il vento, che con tutta la galanteria la piglia e se la porta via. La porta a spesso lieve lieve sul torrente, sul pieve, tutto il mondo le fa vedere tetti rossi, maggesi neri, e che brillano di vetri e foglie quei bambini lungo il rio, quelle vecchie sulle soglie. Che festa, che chiacchierio, bimbi e rondini a strillare e bucati a salutare e ragazze alla finestra e il poeta a stillarsi la testa. O primavera, uccelletto fuggitivo, tu canti e io scrivo. Di Ugo Betti, Nuvoletta al vento.